been told that there's an easily recognizable difference between the songs of North Italy and South Italy. Could you maybe show me? Oh, I guess we can do something like that. Federico, why don't you do something? Vola Colomba? Cantiamo Vola Colomba. Vola Colomba is a song that regards Venice and Trieste always in the north. And you can see the difference between, you know, it's the style. Dio del cielo, se fossi una colomba, vorrei volar laggiù dove il mio amore, che inginocchiato a San Giusto prega con l'animo mesto, fa che il mio amore torni, ma torni presto. Vola, colomba bianca, vola, diglielo tu che tornerò. Che mai più la lascerò. Tutte le sere m'addormento triste e nei miei sogni pianco invoco te. Pure il mio vecchio te sogna, pensa alle pene sofferte, piange e nasconde il viso tra le coperte. Voi